Il punto di Stefano Folli. L'incredibile vicenda dei due Marò in India si avvicina al momento delle decisioni definitive ed è evidente che l'Italia non può più essere mortificata, come è accaduto fino ad oggi, da un paese che non ha mai rispettato gli accordi o il fair play internazionale e che per motivi di politica interna non esita a compromettere le relazioni bilaterali, laddove i nostri governi sono stati leali e corretti, persino troppo, arrivando a restituire i due militari quando si trovavano sul territorio italiano, pur di non pregiudicare i buoni rapporti fra gli stati. Adesso lo scenario cambia e l'accusa assurda di terrorismo, se sarà confermata, obbliga il governo di Roma a reagire in modo adeguato. Ha fatto bene il ministro degli esteri Bonino a minacciare il ricorso al tribunale dell'ONU e si possono immaginare anche altre ritorsioni. Tutto quello che coinvolge la comunità internazionale, finora a dir poco distratta, aiuta il nostro paese e contribuisce a isolare l'India, dimostrando quanto sia pretestuoso aver fatto di questo caso una bandierina nazionalista da sventolare davanti agli elettori locali.